Radio 24 Reportage. AMS, l'Europa a caccia di antimateria, di Gigi Donelli. Cosa mi aspetto? La cosa bella di un esperimento spaziale è che uno lavora tantissimo per prepararlo. Nell'istante in cui lo shuttle lascia la rampa di lancio, ed è la terza volta che io faccio partire un esperimento spaziale, c'è un grandissimo senso di sollievo, perché a quel punto ciò che è fatto. È impossibile rimetterci le mani, uno può solo riflettere su quanto bene o quanto male ha lavorato, sperabilmente bene, e a questo punto godersi veramente i dati che cominciano ad arrivare dall'esperimento e analizzare e cercare le famose risposte alle domande per cui ho lavorato per 16 anni. Roberto Battistone ha 55 anni, ma ne dimostra di meno. È nato a Trento, si è laureato in fisica alla Normale di Pisa quando ne aveva 24. Poi ha studiato a Parigi e dunque Perugia, dove dal 1995 è ordinario di fisica generale presso la Facoltà di Ingegneria. Il professor Battistone all'inizio degli anni 90 ha fondato proprio a Perugia un gruppo di ricerca sperimentale, attivo nel campo della fisica delle particelle, sviluppando rivelatori e tecnologie di innovazione per la fisica fondamentale a terra e nello spazio. Program manager del progetto Silicon Microvertex Detector per l'esperimento L3, all'EP del CERN, è oggi responsabile italiano per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per l'Agenzia Spaziale Italiana di AMS, il primo esperimento di fisica fondamentale dell'INFN nello spazio, un esperimento approvato sulla Stazione Spaziale Internazionale dopo essere stato operato con successo nel primo volo sullo shuttle nel giugno del 1988. AMS-2 sarà installato sulla Stazione Spaziale Internazionale durante l'ultima missione dello Shuttle Endeavour. Si chiama 2 perché nel 98 abbiamo già fatto volare la prima versione ridotta dello stesso strumento per verificarne le funzionalità. Bene, siamo arrivati nel 2011 dopo aver passato tantissime avventure, non solo di carattere scientifico e tecnologico, ma anche di carattere politico, di carattere, diciamo, siamo stati sottoposti alle incertezze dovute al disastro del Columbia che ha ritardato in modo sostanziale la pianificazione degli shuttle e che poi ci ha fatto addirittura uscire per un periodo molto lungo, di quasi 5 anni, dalla pianificazione dei voli di questa navicella. Siamo passati attraverso questo tipo di esperienze, è stato interessante, difficile, faticoso, ma sicuramente molto interessante, anche perché ci ha permesso di conoscere i dettagli di come funziona la politica negli Stati Uniti, il ruolo del Congresso, quanto la politica americana crede nell'importanza della ricerca e anche della ricerca fondamentale come motore per portare nuove scoperte, ha scoperto importanti che poi possono portare anche le applicazioni. È il vecchio meccanismo del Manhattan Project, i migliori scienziati, quelli che hanno iniziato a fare delle ricerche per motivi di carattere fondamentali, quello che si chiama curiosity driven, sono gli stessi che in momenti di necessità sono stati messi al lavoro per cercare risposte a domande applicative molto serie e difficili. In quel caso particolare era una bomba atomica. Noi siamo lo stesso tipo di cultura, cerchiamo risposte a domande fondamentali, la curiosità che ci guida, e per fare questo siamo anche in grado di resistere per 20 anni a inseguire queste nostre fantasie che possono poi portare anche delle scoperte molto importanti. Che cosa cerca? Che cosa cercate? Ma noi cerchiamo di capire tecnicamente come sono composti i raggi cosmici. Cosa sono i raggi cosmici? Un secolo fa, esattamente nel 1912, un ricercatore austriaco, si chiamava Hess di cognome, e scoperse che la Terra è bombardata da sempre da una pioggia di particelle elementari di alta energia che vengono da tutte le direzioni, chiamate appunto raggi cosmici. I raggi cosmici hanno permesso all'inizio di scoprire nuove particelle elementari. Curiosamente, la prima particella scoperta dai raggi cosmici, indovinate un po' cos'era, era un antielettrone, era un positrone, la prima particella di antimateria fu scoperta usando i raggi cosmici. Dagli anni 20 fino agli anni 50 furono scoperte una ventina di particelle elementari nuove studiando i raggi cosmici. Negli anni 50 arrivarono gli acceleratori di particelle. come quelli che ci sono oggi al CERN, macchine potenti, precise, affidabili, che hanno permesso di fare molte altre scoperte e di portare all'apoteosi quello che si chiama oggi modello standard, modello di riferimento delle particelle elementari. Bene, noi cerchiamo di andare nello spazio per la prima volta con uno strumento di questa raffinatezza per cercare nei raggi cosmici altre risposte che gli acceleratori non possono dare. Che cosa? Beh, noi cerchiamo in particolare quello che è il nostro santo Graal, l'eventuale presenza di antinuclei di atomi pesanti. L'atomo è formato da un nucleo molto compatto e dagli elettroni che sono intorno ad esso. Nello spazio i raggi cosmici sono stati ionizzati, hanno perso gli elettroni, che sono solamente i nuclei dei vari elementi, tutti gli elementi, dall'idrogeno fino all'uranio, in quantità diverse. Il punto qual è? Che al momento del Big Bang sono stati prodotti sostanzialmente, poco dopo il Big Bang, solamente protoni, nuclei di idrogeno e una piccola quantità di elio, di nuclei di elio. Tutti i nuclei più pesanti, carbonio, ossigeno, ferro fino all'uranio, non vengono dal Big Bang, sono prodotti all'interno delle fucine stellari col meccanismo di fusione nucleare. La fusione nucleare è la stessa fusione di cui si parla di tanto in tanto come possibile sorgente di energia del futuro. Le stelle funzionano fondendo gli atomi leggeri, i nuclei leggeri per fare nuclei pesanti. Poi esplodono e li distribuiscono, poi si riformano e fanno nuclei più pesanti. Il nostro pianeta, noi stessi, fatti di carbonio e fatti di azoto e di ossigeno, siamo figli delle stelle. Non esisteremmo se non ci fosse stata una catena di stelle sempre più massicce, grosse e pesanti che hanno prodotto fondendoli i nuclei più pesanti da quelli più leggeri. Risulta a questo punto chiaro che se noi trovassimo nello spazio anche un solo nucleo di anticarbonio, di antiossigeno, avremo l'evidenza che da qualche parte lontana dall'universo ci sono delle antistelle al lavoro fatte interamente di antimateria. Quindi bastano poche particelle, una, due, misurate con certezza essere antinuclei relativamente pesanti, per capire un colpo solo che da qualche parte esiste moltissima antimateria. Dal punto di vista scientifico, all'interno dell'esperienza di AMS, esiste una scienza europea o è la scienza delle nazioni? Esiste come, diciamo, AMS è la prova provata di un esperimento che, lanciato dalla NASA con una sponsorship molto forte del Department of Energy, perché lo shuttle, diciamo, l'Europa non ce l'ha, ma la responsabilità dei rivelatori, la tecnologia relativa, la realizzazione all'interno dei laboratori universitari, laboratori degli NFN e nei vari paesi, il supporto del CERN come centro di ricerca internazionale europeo con grandi caratteristiche e grandi qualità, fanno sì che il baricentro delle tecnologie e del contributo di alto livello di AMS sia assolutamente europeo. E in questo l'Italia gioca un ruolo prevalente grazie al contributo degli NFN e al supporto dell'ASI. È una dimostrazione di come le competenze, le risorse, le capacità esistono. Lampante. Per l'esperimento che può operare per quasi 20 anni, dà una sensibilità molto grande agli eventi rari. È come se mi chiedessi in piazza Duomo a Milano e aspettassi che passi un abitante dell'Uzbekistan. Prima o poi passa, ma magari ad aspettare 10 anni. La stessa cosa avviene nello spazio con la ricerca dell'antimateria di AMS. E quanto è importante? Ma la domanda sull'importanza di ricerche di carattere fondamentale è molto opinabile. Una volta un famosissimo fisico inglese, Thomson, fu visitato da un famoso politico dell'epoca mentre stava lavorando allo studio dei fasci di elettroni all'interno di tubi di vetro svuotati. Alla domanda a cosa serve tutto questo, rispose: guardi, non lo so, ma sono sicuro che un giorno ne ricaverete delle tasse. Bene, la risposta vera quando uno fa ricerca a questi livelli è: io non lo so cosa servirà, ma sono sicuro che un giorno un tipo di applicazione verrà trovata darà dei benefici, le tasse in caso particolare, ma forse anche tanti altri benefici. Ricordiamoci che il mondo in cui viviamo oggi, quello tecnologicamente avanzato, con tutta la sofisticatezza del World Wide Web, beh, ricordiamoci che il World Wide Web viene dagli studi fatti al CERN di Ginevra, dove si studiano le particelle elementari, gli acceleratori, ma si sviluppano degli strumenti così incredibilmente potenti anche da un punto di vista software. E ricordiamoci che il World Wide Web inventato dal CERN oggi ha letteralmente cambiato il mondo, sta cambiando il mondo in modo completamente inaspettato. Se uno sapesse predire il futuro, non avrei bisogno della ricerca, ma siccome il futuro non si può predire, la ricerca di alto livello, quella al massimo livello di competizione, di selezione, di serietà, è assolutamente indispensabile. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.